Emma. Quindicesima traccia. Forse cominciarono ad accorgersi che sarebbe stato più gentile e più saggio aver resistito a ogni tentazione d'indugio e averle risparmiato il gusto di quei godimenti di agiatezza e di svago che dovevano ora essere abbandonati. Tuttavia l'affetto era ancora lieto d'appigliarsi a ogni scusa ragionevole per non affrettare il penoso momento. Jane non si era mai sentita bene del tutto dal tempo del matrimonio della loro figlia. E benché non avesse interamente recuperato le forze, essi dovevano impedirle d'accudire a doveri che, lungi dall'essere compatibili con un fisico indebolito e uno spirito fluttuante, parevano, nelle circostanze più favorevoli, richiedere qualcosa di più della perfezione umana di corpo e di mente per essere disimpegnati senza troppo incomodo. Circa il suo mancato viaggio in Irlanda, ciò che aveva narrato alla zia non era che verità, sebbene ci potessero essere delle altre verità rimaste nella penna. Fu lei che scelse di dedicare a Ivory il periodo della loro assenza, di passare quelli che forse erano i suoi ultimi mesi di piena libertà con quei buoni parenti che le volevano così bene. E i Campbell, quale che potesse essere il loro motivo o i loro motivi, unico, duplice o triplice, dettero prontamente la loro approvazione al progetto e dissero che, per il recupero della sua salute, contavano più su qualche mese passato all'aria nativa che su qualunque altra cosa. Era certo che Jane sarebbe venuta e che Ivory, invece di dare il benvenuto a quella perfetta novità che le era stata da tanto tempo promessa, Mr. Frank Churchill, doveva rassegnarsi per il momento a Jane Fairfax, che poteva solo recare la freschezza ad un'assenza di 2 anni. Emma ci rimase male. Dover usare cortesia per 3 lunghi mesi a una persona che non le garbava. Dover sempre fare più di quel che desiderava e meno di quanto avrebbe dovuto. Perché Jane Fairfax non le andasse a genio potrebbe essere una domanda difficile a trovare risposta. Mr. Knightley le aveva detto una volta che era perché vedeva in lei quella giovinetta veramente compita che desiderava d'essere ritenuta lei stessa. E benché l'accusa fosse stata calorosamente refusata allora, c'erano momenti d'esame interiore in cui la coscienza di Emma non poteva del tutto assolverlo. Ma essa non poteva stringere rapporti con lei, non sapeva come mai, ma c'era una tal freddezza e riservatezza, una tale indifferenza apparente che lo volesse o no, e poi sua zia era una chiacchierona che non finiva più, e tutti facevano tanto caso di lei, e sempre si erano immaginati che esse sarebbero divenute così intime. Siccome avevano la stessa età, ognuno aveva supposto che si sarebbero affezionate l'una all'altra. Queste erano le ragioni di Emma, non ne aveva di migliori. Era un'antipatia così poco giusta, ogni difetto attribuito era così ingrandito dalla fantasia che essa non rivedeva mai la prima volta Jane Fairfax dopo un'assenza considerevole senza sentire d'averle fatto torto. E questa volta, fatta che fu la visita di dovere, al suo arrivo, dopo 2 anni di intervallo, Emma rimase particolarmente colpita proprio da quell'aspetto e da quei modi che per quei 2 anni interi essa aveva criticato. Jane Fairfax era molto elegante, elegante in modo notevole, e l'eleganza era proprio ciò che Emma apprezzava di più. La sua statura era considerevole, proprio quella che ognuno avrebbe ritenuto alta, e nessuno avrebbe potuto ritenere troppo alta. La sua figura particolarmente aggraziata, le sue proporzioni, né grasse né magre, ma gradevolmente medie, sebbene una lieve apparenza di cattiva salute sembrasse indicare quale di quei 2 difetti predominasse. Emma non poteva non sentire tutto ciò, e poi il suo volto, i suoi lineamenti. C'era nel loro insieme più bellezza di quanto essa non ricordasse. Non era una bellezza regolare, ma era molto attraente. Agli occhi di Jane, grigi cupi, con ciglia e sopracciglia nere, non era mai stata negata la debita lode, ma la pelle sulla quale Emma era stata solito di sottilizzare, dicendo che mancava di colore, aveva una chiarezza e una delicatezza che in verità non abbisognavano di più vivace tinta. Era un tipo di bellezza il cui carattere dominante era l'eleganza, e come tale essa, essere sincera e coerente con tutti i suoi principi, doveva ammirarla. L'eleganza che, sia di persona che di ingegno, essa vedeva così di rado aibori. Là c'era distinzione e merito a non essere volgari. In breve, durante la prima visita, essa stette a guardare Jane Fairfax con doppia compiacenza. Il sentimento di piacere e il sentimento di rendere giustizia, e stava prendendo la decisione di non trovarla più antipatica. Quando, invero, rifletteva alla sua storia e alla sua situazione, nonché alla sua bellezza, quando considerava a che cosa era destinata tutta quell'eleganza, da che altezza stava per sprofondare, come si preparava a vivere, pareva che non si potessero sentire che compassione e rispetto. Specie se a ciascuno dei particolari noti che le davano diritto a suscitare l'interesse si aggiungeva la circostanza molto probabile d'un attaccamento a Mr. Dixon che in lei doveva essere nato così naturalmente. In tal caso nulla poteva essere più pietoso o più onorevole dei sacrifici ai quali si era decisa. Ora Emma era dispostissima ad assolverla dall'aver voluto alienare l'affetto di Mr. Dixon dalla moglie e da ogni altra cattiveria che la sua fantasia aveva dapprima immaginato. Se era amore, poteva trattarsi di un semplice amore unilaterale e sfortunato soltanto da parte di lei. Poteva aver succhiato inconsciamente il triste veleno mentre condivideva la conversazione dell'amica, e per il migliore e il più puro dei motivi poteva ora negare a se stessa questa visita in Irlanda e risolvere di staccarsi in modo efficace da lui e dai suoi parenti, cominciando presto la sua carriera di faticoso dovere. In complesso, Emma la lasciò con sentimenti così ammorbiditi e caritatevoli da farla guardare intorno mentre ritornava a casa e dolersi che Highbury non offrisse alcun giovanotto degno di procurarle l'indipendenza, nessuno sul quale ella desiderasse di far progetti in favore di lei. Questi erano sentimenti deliziosi, ma non durarono. Prima che Emma si impegnasse con una dichiarazione pubblica d'amicizia eterna per Jane Fairfax, o si avvicinasse a una ritrattazione dei preconcetti e degli errori di un tempo, più che col dire a Miss Knightley, certo, essi avvenente, è più che avvenente, Jane passò una sera a Alfield con la nonna e la zia, e tutto stava ritornando nella situazione di prima. Riapparvero antiche irritazioni. La zia era la solita noiosa di prima, perché ora all'ammirazione delle doti di Jane si aggiungeva sollecitudine per la sua salute. E debbero ad ascoltare la descrizione di quanto esattamente poco pane e burro essa mangiava a colazione, di che fettine di montone prendeva a pranzo, come pure ebbero da vedere esposizione di nuove cuffie e di nuove borse da lavoro fatte per la nonna e per la zia. E di nuovo risorsero i lati urtanti di Jane. Fecero musica. Emma fu obbligata a suonare. E i ringraziamenti e gli elogi che necessariamente seguirono parvero a lei spirare un'affettazione di franchezza, un'aria di grandezza, intese soltanto a dar risalto, in un più elevato stile, alla sua propria impeccabile esecuzione. Inoltre, e questo era il peggio, essa era così fredda, così cauta, non c'era modo di cogliere la sua vera opinione. Ravvolta in un mantello di cortesia, essa sembrava decisa a non azzardar niente, e era riservata in una maniera disgustosa e sospetta. Se, dove tutto era al massimo grado, qualcosa poteva andare ancora oltre, essa era più riservata sul tema di Weymouth e dei Dixon che sul resto. Pareva decisa a non dare alcun reale apprezzamento del carattere di Mr. Dixon, o la propria valutazione della sua compagnia, o la sua opinione della convenienza del matrimonio. Tutto suonava generica approvazione e amabilità, nulla di preciso o di distinto. Tuttavia ciò non le servì a nulla, la sua cautela era sprecata. Emma ne vide l'artificio e tornò ai primitivi sospetti. C'era da nascondere probabilmente assai più della preferenza individuale di Jane. Mr. Dixon, forse, era stato lì lì per cambiare una delle amiche con l'altra, o aveva fissato la sua scelta su Miss Campbell solo per via delle future 12.000 sterline. La stessa riservatezza predominava su altri argomenti. Jane e Mr. Frank Churchill si erano trovati a Weymouth nello stesso tempo. Si sapeva che si conoscevano un po', ma Emma non poté cavare neanche una sillaba di vera informazione su come egli fosse in realtà. Era bello? Essa credeva che fosse ritenuto un gran bel giovanotto. Era piacevole? Generalmente era ritenuto tale. Sembrava un giovanotto assennato, un giovanotto colto? In una stazione d'acque minerali o nel corso di ordinari rapporti di conoscenze a Londra era difficile pronunciarsi su tali punti. Le maniere erano quanto poteva giudicarsi con sicurezza da chi aveva praticato Mr. Churchill molto più a lungo di quanto lei e Campbell non avessero fatto. Credeva che ognuno trovasse piacevole le sue maniere. Emma non poteva perdonarla. Ma siccome né la provocazione né il risentimento erano stati notati da Mr. Knightley, che era stato presente al ritrovo, e non aveva visto altro che i dovuti riguardi e contegno affabile da entrambe le parti, la mattina dopo egli, trovandosi di nuovo a Hartfield per affari con Mr. Woodhouse, esprimeva la sua approvazione del modo in cui si era svolto l'incontro. Non così apertamente come avrebbe potuto fare se il padre di Emma fosse stato assente dalla stanza, ma insomma in parole abbastanza chiare per riuscire assai intellegibile a lei. Egli era stato solito di ritenerla ingiusta verso Jane e ora aveva gran piacere nell'osservare un miglioramento. Una serata molto piacevole cominciò non appena Mr. Woodhouse fu persuaso a forza di parlargli di ciò che era necessario e assicurato che Mr. Knightley capiva e le carte vennero messe da parte, particolarmente piacevole. Voi e Miss Fairfax ci avete fatto dell'ottima musica. Non conosco stato più delizioso, signor mio, di quello di sedere comodamente ed essere intrattenuto da due giovani donne come queste un'intera serata, ora con la musica e ora con la conversazione. Sono certo che Miss Fairfax deve aver trovato piacevole la serata, Emma. Non avete trascurato nulla, sono lieto che l'abbiate fatta suonare tanto, poiché non trovando uno strumento presso la nonna deve essere stato per lei proprio un piacere. Sono lieta che abbiate approvato, disse Emma sorridendo, ma spero di non essere spesso manchevole nei miei doveri verso gli ospiti di Arti. No, mia cara, disse immediatamente suo padre, questo sicuramente non lo sai mai. Non c'è nessuno che abbia la metà della tua premura e affabilità. Semmai sei troppo premurosa. Il muffin, ieri sera, se tu l'avessi fatto circolare una volta sola, credo che sarebbe bastato. No, disse Mr. Knightley, quasi nello stesso tempo, non siete spesso manchevole. Non spesso manchevole nelle maniere o in comprensione. Perciò io credo che mi intendiate. Un'occhiata maliziosa esprimeva, intendo abbastanza, ma lei disse soltanto, Miss Fairfax è riservata. Io v'ho sempre detto che lo era, ma presto vincerete tutta quella parte della sua riservatezza che dovrebbe essere vinta, tutta quella che ha il suo fondamento nella diffidenza, quella invece che sorge dalla discrezione deve essere onorata. Voi la credete diffidenza? Non vedo come. Mia cara Emma, disse egli spostandosi dalla sua sedia a una accanto a lei, non state per dirmi, spero, che non avete passato una serata piacevole? Oh no, mi son compiaciuta della mia perseveranza a far domande e mi son divertita a pensare quanto poca informazione ho ottenuto. Rimango deluso, fu la risposta di lui. Spero che ognuno abbia passato una serata piacevole, disse Mr. Woodhouse con la sua flemma consueta. Per me è stata piacevole. Un momento ho sentito che il fuoco faceva troppo caldo. Allora ho tirato indietro la mia sedia un poco, un pochettino, e non mi ha dato più disturbo. Miss Bates era molto loquace e di buon umore, come sempre, sebbene parli piuttosto troppo in fretta. Però è molto piacevole, e anche Mrs. Bates lo è, in diverso modo. Mi piacciono i vecchi amici, e Miss Jane Fairfax è un tipo di signorina molto graziosa, davvero una signorina graziosissima ed educatissima. Deve aver trovato la serata molto piacevole, Mr. Knightley, perché aveva Emma. Già, ed Emma a sua volta perché aveva Miss Fairfax. Emma vide la sua ansia e, desiderando di calmarla almeno per il momento, disse con una sincerità che nessuno poteva mettere in dubbio: «È un tipo di creatura elegante da cui non si possono staccare gli occhi. Io non faccio che osservarla per ammirarla e la commisero con tutto il cuore». Mr. Knightley assunse un'aria come se fosse più soddisfatto di quanto si curasse d'esprimere. E prima che egli potesse dare alcuna risposta, Mr. Woodhouse, i cui pensieri andavano alle Bates, disse: «È un gran peccato che le loro condizioni siano così modeste, davvero un gran peccato. E spesso ho desiderato, ma uno può azzardarsi a far così poco, regaletti da nulla, di cose non comuni. Ora abbiamo ammazzato un maialetto ed Emma pensa di mandar loro un alombato o un cosciotto. È molto piccolo e delicato. I maiali di Hartfield non sono come gli altri maiali, ma è sempre un maiale. E mia cara Emma, se uno non può essere sicuro che ne faccia un braciole ben fritte come le nostre, senza la più piccola traccia di grasso, e che non l'arrostiscano, perché nessun stomaco può tollerare il maiale arrosto, io credo che faremo meglio a mandare un cosciotto. Non pare anche a te, cara?» «Mio caro babbo, ho mandato l'intero quarto posteriore. Sapevo che l'avresti desiderato. Ci sarà la coscia da salare, sai, che è così buona, e la lombata da preparare subito, al modo che piacerà loro». «Bene, mia cara, benissimo. Non ci avevo pensato prima, ma questo era il miglior modo. Non devono salar troppo il cosciotto. E allora, se non è troppo salato e si è bollito come si deve, come Serle bolle il nostro, e mangiato moderatamente, con una rapa lessa e un po' di carota o di pastinaca, non lo considero insalubre». «Emma», disse Mr. Knightley, «ho una notizia per voi. A voi le notizie piacciono. Mentre venivo qui, ho udito qualcosa che credo vi interesserà». «Notizie? Oh sì, mi piacciono sempre le notizie». «Di che si tratta? Perché ridete? Dove l'avete sentita? A Randalls?» Egli ebbe tempo di dire soltanto: «No, non a Randalls, non sono stato vicino a Randalls». Quando la porta fu spalancata ed entrarono nella stanza Miss Bates e Miss Fairfax. Piena di ringraziamenti e piena di notizie, Miss Bates non sapeva quali dare prima. Mr. Knightley non tardò ad accorgersi d'aver perduto il suo momento, che non poteva rimanergli da fare una sola sillaba della comunicazione. «Oh, mio caro signore, come state questa mattina?» «Mia cara Miss Woodhouse, veramente non ho parole, che magnifico quarto posteriore di maiale. Siete troppo liberali. Avete sentito la notizia? Mr. Elton si sposa». Emma non aveva avuto il tempo neanche di pensare a Mr. Elton e rimase così completamente sorpresa che non poté evitare un piccolo sussulto e un po' di rossore al suon di quel nome. «Ecco qual era la mia notizia. Pensavo che vi avrebbe interessato», disse Mr. Knightley, con un sorriso che sottintendeva la convinzione che qualcosa era accaduta tra Elton ed Emma. Ma dove avete potuto prenderla voi?» esclamò Miss Bates. «Dove mai avete potuto prenderla, Mr. Knightley? Perché non sono passate 5 minuti da quando ho ricevuto la missiva di Mrs. Cole. No, non possono essere più di 5 minuti, o tutt'al più 10. Perché m'ero messa il cappello e lo spencer ed ero pronta per uscire. Ero solo scesa giù per parlare di nuovo a Patty del maiale. Jane si trovava nel corridoio, non è vero, Jane? Perché la mamma aveva tanta paura che non avessimo una padella per salare grande abbastanza. Sicché ho detto che sarei scesa giù a vedere, e Jane ha detto: devo andar giù io invece, perché credo che tu sia un po' infreddata. E Patty ha lavato in cucina. Oh, cara, ho fatto io, e proprio in quel momento è arrivata la missiva. Una Miss Hawkins, questo è tutto quello che so, una Miss Hawkins di Bath. Ma, Mr. Knightley, come avete mai potuto apprenderlo? Perché appena Mr. Cole l'ha detto a Mrs. Cole, essa si è seduta a tavolino e ha scritto a me: una Miss Hawkins. Stavo parlando d'affari con Mr. Cole 1 ora e mezzo fa. Egli aveva appena letto la lettera di Elton quando io sono stato introdotto nella stanza e me l'ha passata subito. Ebbene, questo è proprio, suppongo che non c'è mai stata notizia più interessante. «Mio caro signore, voi siete davvero troppo liberale. Mia madre mi incarica dei suoi migliori saluti e rispetti e di mille ringraziamenti e dice che voi realmente la sovraccaricate». «Noi consideriamo il nostro maiale di Hartfield», rispose Mr. Woodhouse, «anzi, certamente è, così superiore a ogni altro maiale, che Emma e io non possiamo aver piacere maggiore che di...» «Oh, mio caro signore, come dice mia madre, i nostri amici non sono che troppo buoni con noi. Se mai ci fu gente che, senza avere molta ricchezza essa medesima, ha avuto qualunque cosa desiderasse, sono sicura che siamo noi. Possiamo ben dire che una bella eredità ci è pur toccata. Dunque, Mr. Knightley, voi avete proprio veduto la lettera, ebbene. Era corta, solo per annunciare, ma naturalmente allegra, esultante. Qui ci fu un'occhiata furtiva a Emma. Aveva avuto la fortuna di, non ricordo le precise parole, uno non deve impicciarsi di ricordarle. L'informazione era, come voi dite, che egli si sarebbe sposato con una Miss Hawkins. Dal suo stile penserei che era stato combinato proprio allora. «Mr. Elton si sposa», disse Emma appena poté parlare. «Avrà i voti di tutti per la sua felicità». «È molto giovane per accasarsi», osservò Mr. Woodhouse. «Farebbe bene a non aver tanta fretta. A me pareva che vivesse molto comodamente come viveva. Eravamo sempre molto lieti di vederlo a Hartfield». «Una nuova vicina per noi tutti, Miss Woodhouse», disse Miss Bates, tutta allegra. «Mia madre è così contenta. Dice che non può tollerare di vedere la povera antica canonica senza una padrona. Questa è davvero una grande notizia. Jane, tu non hai mai veduto Mr. Elton. Nessuna meraviglia che tu sia così curiosa di vederlo». La curiosità di Jane non sembrava di natura sia assorbente da occuparla tutta. «No, non ho veduto mai Mr. Elton», rispose trasalendo a quell'appello. «È un uomo alto?» «Chi risponderà a questa domanda?» esclamò Emma. «Mio padre direbbe di sì, Mr. Knightley di no. Miss Bates ed io che è proprio il giusto mezzo. Quando sarete stata qui un po' più a lungo, Miss Fairfax, capirete che Mr. Elton è per Highbury il modello della perfezione, sia per l'aspetto fisico che per la mente». «Proprio così, Miss Woodhouse, allora capirà. È assolutamente il miglior giovanotto. Ma, mia cara Jane, se ti ricordi, t'ho detto ieri che egli aveva esattamente la statura di Mr. Perry. Miss Hawkins, m'immagino un'eccellente ragazza, le sue infinite premure per mia madre, ha voluto che sedesse nel banco riservato alla famiglia del Pievano, perché potesse sentirci meglio, perché mia madre è un po' dura d'orecchio, sapete. Non molto, ma non ci sente tanto rapidamente. Jane dice che il colonnello Campbell è un po' sordo. Si immaginò che i bagni potessero giovargli, i bagni caldi, ma lei dice che non ne trasse un sollievo durevole. Il colonnello Campbell, sapete, è proprio il nostro angelo. E Mr. Dixon pare un giovanotto affascinante, proprio degno di lui. È una tal felicità quando la buona gente si mette insieme, e sempre succede che ci si mette. Ecco che ci saranno Mr. Elton e Miss Hawkins, e ci sono i Cole, gente così buona, e i Perry. Suppongo che non ci fu mai coppia più felice o migliore di Mr. e Mrs. Perry. Io dico, signore, volgendosi a Mr. Woodhouse, che credo che ci siano pochi posti con una società come quella di Highbury. Dico sempre che siamo proprio fortunati coi nostri vicini. Mio caro signore, se c'è una cosa che mia madre preferisce ad ogni altra, è il maiale, una lombata di maiale arrosto. Su chi e che cosa sia Miss Hawkins, e da quanto egli l'abbia conosciuta, disse Emma, suppongo che non possa sapersi nulla. Si ha l'impressione che non possa essere una conoscenza di vecchia data. Egli è rimasto assente solo 4 settimane. Nessuno poteva dare informazioni, e dopo alcune altre congetture a vuoto, Emma disse: «Voi state zitta, Miss Fairfax, ma spero che intendiate interessarvi a questa notizia. Voi, che di recente avete sentito e visto tanto su questo argomento del matrimonio, che dovete aver avuto le mani tanto in pasta per via di Miss Campbell, non vi perdoneremmo la vostra indifferenza nei riguardi di Mr. Elton e di Miss Hawkins. Quando avrò veduto Mr. Elton, rispose Jane, suppongo che mi interesserò, ma credo che con me ci voglia questo. E siccome è già passato qualche mese dal matrimonio di Miss Campbell, le mie impressioni possono essersi un po' cancellate. Già, è partito proprio 4 settimane fa, come voi osservate, Mr. Woodhouse, disse Miss Bates. 4 settimane ieri. Una Miss Hawkins. Ebbene, m'ero sempre immaginato che sarebbe stata qualche signorina di quintorno. Non che io mai. Miss Scone una volta mi sussurrò. Ma io dissi immediatamente: no, Mr. Elton è un degnissimo giovane, ma. In breve, non credo d'essere particolarmente rapida in quel genere di scoperte. Non pretendo di esserlo. Quel che sta dinanzi a me lo vedo. Al tempo stesso, nessuno si meraviglierebbe se Mr. Elton avesse aspirato. Miss Woodhouse mi lascia continuare a chiacchierare così bonariamente. Sa che io per nulla al mondo vorrei recare offesa. Come sta, Miss Smith? Sembra che ora si sia proprio rimessa. Avete avuto notizie recenti di Mrs. John Knightley? Oh, quei cari bambini. Jane, sai che sempre mi immagino che Mr. Dixon somigli a Mr. John Knightley? Voglio dire nell'aspetto fisico, alto e con quell'aria e di poche parole. Assolutamente sbagliato, mia cara zia. Non c'è somiglianza alcuna. Strano, ma non ci si fa mai un'idea giusta di nessuno anticipatamente. Uno raccoglie un'idea e lascia che la fantasia si sbizzarrisca. Mr. Dixon, tu dici, non è, strettamente parlando, bello. Bello? Oh no, tutt'altro, è certamente brutto. Ti ho detto che era brutto. Mia cara, dicevi che Miss Campbell non concedeva che fosse brutta e che tu stessa. Oh, quanto a me, il mio giudizio non conta nulla. Quando io nutro rispetto, penso sempre che una persona sia di bell'aspetto, ma riferivo quello che ritenevo l'opinione generale quando lo definivo brutto. Ebbene, mia cara Jane, credo che ci toccherà scappare. Il tempo sembra si guasti e la nonna starà in pensiero. Siete troppo gentile, cara Miss Woodhouse. Ma davvero dobbiamo congedarci. Questa è stata davvero una notizia piacevole. Passerò da Mrs. Cole, non mi fermerò 3 minuti. E Jane, tu farai meglio ad andare direttamente a casa. Non vorrei che ti trovassi fuori con un acquazzone. Ci pare già che grazie a Ivory essa stia meglio. Non cercherò di fare una visita a Mrs. Goddard, perché veramente non credo che si curo d'altri che di maiale bollito. Quando prepareremo il cosciotto sarà un'altra cosa. Buongiorno, mio caro signore. Oh, viene pure Miss Knightley. Ebbene, questo è così. Sono sicura che se Jane è stanca, sarete così cortese da darle il braccio. Mr. Elton e Miss Hawkins. Buongiorno. Emma, rimasta sola col padre, dovette dedicare a lui metà della sua attenzione, mentre egli si lamentava che i giovani avessero tanta fretta di sposarsi poi con gente non di conoscenza, e l'altra metà la poté dedicare alle sue proprie considerazioni sull'argomento. Per lei era una notizia divertente e molto gradita, come quella che dimostrava che Mr. Elton non poteva aver sofferto a lungo, ma le dispiaceva per Harriet. Harriet ne avrebbe provato una penosa impressione, e tutto quel che poteva sperare era che, dando a lei stessa la prima comunicazione, le avrebbe evitato di sentirla bruscamente da altri.